con Stefano Cravero e Pietro Iona per parlare del documentario Country for Old Men in uscita in sala il prossimo 1º ottobre. Stefano e Pietro, ben trovati. Andremo alternati nelle risposte e il primo di voi ci presenta questo lavoro. Pietro, ciao a tutti. Allora, questo lavoro è un tentativo di ritratto di una comunità di pensionati americani che si trovano a essere emigrati a un'età di 70 e più anni in un paese, in un agglomerato urbano in mezzo alle Andine, in Ecuador, che si chiama Cotacachi. E sono lì a vivere in Ecuador perché sfuggono alla crisi economica e cercano di far valere un pochino di più gli ultimi dollari che gli restano dopo la crisi del 2008. Come siete venuti a conoscenza di questa storia? Un'amica di Pietro, che si trovava a lavorare a Cotacachi, in realtà per ragioni completamente diverse, perché faceva un progetto agricolo con i contadini delle comunità locali, ci aveva raccontato appunto ci aveva raccontato insomma, che ultimamente si trovava a vivere in questa cittadina in cima alle Ande, in cui era circondata da vecchini americani bianchissimi e pallidissimi, e quindi niente, diciamo, ci siamo incuriositi all'argomento. Poi abbiamo iniziato a fare un po' di ricerche, iniziando molto banalmente da internet, e ci siamo resi conto che in realtà appunto Cotacachi era un po' la testimonianza, il centro di un fenomeno molto più ampio, che in realtà era anche incominciato già da qualche anno. E appunto poi da lì, insomma, ci è nata la curiosità di approfondire, e siamo poi riusciti piano piano a mettere in piedi, a trovare una produzione, a mettere in piedi il film vero e proprio. Che tipo di interazione c'è tra questi pensionati e la comunità dove vivono? Allora, diciamo che le situazioni sono le più svariate e non si può definire una tipologia singola, così come non si può definire una tipologia singola di espatriato. Diciamo che alla base di tutto c'è il fatto che, come categoria, l'anziano expat è un soggetto debole che ha bisogno di un aiuto e ha bisogno quindi di personaggi che si occupino di lui. In questo senso, cioè, questo è diciamo, il livello minimo di interazione tra il locale e l'espatriato, è quello del locale che fa un mestiere necessario all'espatriato, quindi il tassista, l'avvocato, il medico, il veterinario per il cane dell'espatriato, eccetera. Chiaramente poi ci sono, e sono anche numerosi, gli espatriati che invece vogliono imparare la lingua e cercano di interagire con i locali, con i local, che tra l'altro sono a loro volta divisi in local latinos, diciamo, e indigeni, e quindi in qualche maniera ci sono diversi livelli nell'essere locali, nell'essere stranieri a Cotacachi. Sì. Più o meno di quante persone si tratta? Ormai è anche difficile da rispondere a questa domanda, perché nel frattempo, da quando abbiamo incominciato, sono passati ormai 2 o 3 anni, credo, quindi il fenomeno è molto È in aumentato. evoluzione che in mutazione, però io credo che fossero più o meno 600 persone, in forte crescita, ovviamente, perché anche quando noi eravamo lì a girare continuavano settimanalmente a esserci dei nuovi arrivi. Però appunto soprattutto nell'ambito di una cittadina che è molto piccola, di una comunità, teniamo conto anche che appunto è una comunità anche piuttosto isolata, perché insomma sta in mezzo alle montagne, non è comunque a circa 3 ore da Quito, quindi appunto è una presenza forte numericamente, ma anche forte proprio come a livello di impatto, diciamo. Che voi sappiate cosa c'è all'origine di questa scelta? Il clima e l'economia? Allora, direi che come primissimo motivo per espatriare, per i nostri protagonisti, c'è quello economico, tanto che loro spesso si sono autodefiniti economic refugees. Detto questo, la scelta dell'Ecuador, invece della Thailandia o di qualche altro paese, è stata motivata, allora, dal clima favorevole, non troppo caldo, non troppo freddo, dal costo della vita molto basso, questo abbiamo detto, dalla presenza di un'assistenza sanitaria pubblica gratuita, che in qualche maniera rientra nella questione economica, ma apre anche altri discorsi, altri pensieri che si possono fare sulle motivazioni che li fanno decidere. Detto questo, l'Ecuador è un paese tutto sommato abbastanza civile dal punto di vista dell'americano medio che magari ha viaggiato poco, nel senso che c'è internet, ci sono i trasporti pubblici che funzionano. Diciamo che pur essendo un'avventura, questo salto nel buio non è poi un'avventura troppo estrema, tanto che è possibile per personaggi di una certa età comunque. Sì. Che voi sappiate, ci sono anche altre zone del Latino America interessate da questo tipo di viaggi? Sì, innanzitutto ci sono anche altre zone dell'Ecuador, perché per esempio ci sono alcune cittadine sulla costa che sono appunto anch'esse oggetto di un fenomeno migratorio piuttosto importante da parte di pensionati americani. E poi c'è Panama, se non sbaglio, molti di loro ci hanno parlato di Panama come di un posto, diciamo, a livello di migrazione più arretrato rispetto all'Ecuador, ma ci è sembrato di capire che Panama fosse da loro considerato una valida alternativa, una delle opzioni. Poi io sinceramente credo diciamo, i punti di arrivo di questo fenomeno siano anche molto soggetti a variazioni, perché la verità è che ovviamente le situazioni cambiano molto sia rispetto alla, diciamo, situazione politica ed economica americana, inteso come degli Stati Uniti, sia a livello ovviamente politico di offerta, chiamiamolo così, politica economica dei paesi per loro ospitanti, quindi con il semplice cambio di un presidente magari il fenomeno potrebbe spostarsi completamente da un'altra parte, loro sono ovviamente molto attenti a queste cose. Che tipo di uscita sarà? Questa è una bella domanda. Allora, la casa di distribuzione La Bottanza ha organizzato un'uscita in più città, insomma c'è un elenco che deve essere ancora definito, ma che ha una serie già di date, che vi comunico, che sono il 1° di ottobre a Bergamo, il 4 a Roma al Cinema Apollo 11, il 5 a Milano e poi insomma si vedrà. A seguire. Chiaramente, essendo il nostro un film piccolino, la distribuzione significa che saranno serate, saranno più eventi che una distribuzione Certo. standard da grande film, grande nel senso di film col budget e con la distribuzione standard, diciamo. Sì. E noi cercheremo di esserci, tra l'altro, saremo sicuramente a Roma, saremo sicuramente a Bergamo, a Milano, verosimilmente a Torino quando capiremo le date, perché noi siamo tutti e due qua a Torino. E insomma, dove altro riusciremo? Ok. Sì, direi che comunque per il momento possiamo dirci più che contenti, nel senso che ovviamente, insomma, come sappiamo, la vita dei documentari in Italia non è una vita molto felice, per cui appunto devo dire che l'idea comunque di avere un distributore che appunto in questi giorni si sta dando tra l'altro molto da fare per organizzare e seguire il più possibile le uscite, ovviamente per noi è tutta una novità ed è tutta una cosa molto bella, perché non è scontato, non è mai scontato per un documentario riuscire davvero ad approdare in sala, insomma. Allora, ricordiamo il documentario Country for Old Men di Stefano Cravero e Pietro Iona in uscita in sala a partire dal 1 ottobre. Un abbraccio, un saluto, a risentirci presto. Grazie mille. Ciao, grazie mille, a presto.